giudici. Dopo la morte di Giosuè, gli israeliti consultarono il Signore per sapere chi di loro dovesse muovere a combattere contro i cananei. Il Signore rispose: «È Giuda che muoverà per primo. Darò in suo potere la regione che assale». Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: «Vieni con me, che combatteremo insieme contro i cananei nel territorio che mi è toccato in sorte. Poi verrò anch'io insieme a te nel territorio a te assegnato». Simeone andò con lui. Giuda si mosse e il Signore mise in suo potere cananei e perizziti. Gli uomini di Giuda uccisero in Bezek 10.000 nemici. In Bezek essi trovarono il re di Bezek. Lo assalirono sconfiggendo cananei e perizziti. Il re di Bezek fuggì, ma lo inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici e gli alluci. Disse allora il re di Bezek: 70 re con i pollici e gli alluci tagliati raccoglievano gli avanzi sotto la mia tavola. Come io ho fatto, così Dio mi ha reso. Fu portato a Gerusalemme e qui morì. Quelli di Giuda avevano assalito Gerusalemme e, espugnatala, ne avevano passati gli abitanti a fil di spada, poi l'avevano data alle fiamme. Poi quelli di Giuda si diressero verso sud a combattere contro i cananei che abitavano la zona montagnosa, il Negeb e la Sefela. Marciarono contro i cananei di Ebron, città che prima si chiamava Kiriat Arba, e sconfissero Sesai, Achiman e Talmai. Da Ebron gli uomini di Giuda marciarono contro gli abitanti di Debir, città che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse: «A colui che riuscirà a battere Kiriat Sefer e a conquistarla, darò in sposa mia figlia Aksa». Colui che conquistò Kiriat Sefer fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Così Caleb gli dette in sposa sua figlia Aksa. Quando essa arrivò alla casa dello sposo, egli la convinse a chiedere a suo padre un campo. Essa allora, scesa dall'asino, sospirò profondamente e Caleb le domandò che cosa avesse. Essa gli rispose: «Fammi un dono migliore, che mi hai assegnato la regione del Negeb. Dammi anche qualche fonte d'acqua». Caleb le concesse la sorgente superiore e la sorgente inferiore. I discendenti di Obab il Kenita, suocero di Mosè, mossero dalla città delle palme insieme a quelli di Giuda, verso quella parte del deserto di Giuda che è nel Negeb di Arad. Poi continuarono la loro marcia e si stanziarono con gli Amaleciti. Giuda proseguì con suo fratello Simeone e sconfissero i cananei che abitavano in Zefat. La città fu votata allo sterminio e per questo fu chiamata Corma. Giuda non riuscì a conquistare né Gaza col suo territorio, né Ascalon col suo territorio, né Ecron col suo territorio. Il Signore protesse invece Giuda nella conquista della zona montuosa. Giuda non riuscì a vincere gli abitanti della pianura perché essi avevano carri di ferro. Ebron fu assegnata, come aveva detto Mosè, a Caleb, il quale ne cacciò i tre figli di Anak. I beniaminiti non cacciarono i gebusei che abitavano Gerusalemme. Così questi abitarono in Gerusalemme insieme ai beniaminiti, come accade ancora ai nostri giorni. Quelli della tribù di Giuseppe si mossero anch'essi e marciarono contro Betel, e il Signore fu con loro. Essi mandarono esploratori contro Betel, città che prima si chiamava Luz, i quali scorsero un uomo che usciva dalla città. Gli dissero: «Mostraci la via per penetrare nella città, e noi ti risparmieremo». L'uomo indicò loro la via per penetrarvi. Allora quelli di Giuseppe passarono gli abitanti a fil di spada, ma risparmiarono quell'uomo e tutti i suoi parenti. Costui se ne andò nel paese degli Ittiti, dove costruì una città che chiamò Luz, nome che conserva anche oggi. Manasse non scacciò gli abitanti di Beisan e delle città sue dipendenti, né quelli di Taanach e delle città sue dipendenti, né quelli di Dor e delle città sue dipendenti, né quelli di Ibleam e delle città sue dipendenti, né quelli di Megiddo e delle città sue dipendenti. Così i cananei riuscirono a mantenersi in questa regione. Ma poiché Israele era più forte di loro, li sottomise a pagare il tributo, pur non essendo riuscito a privarli della loro terra. Neanche Efraim cacciò i cananei che abitavano in Gezer, e così in Gezer i cananei abitarono in mezzo ad Efraim. Neanche Zabulon cacciò gli abitanti di Chitron, né quelli di Naalol. Così i cananei, pur pagando il tributo, restarono in mezzo a Zabulon. Neanche Aser cacciò gli abitanti di Acco, né quelli di Sidone, di Aclab, di Akzib, di Elba, di Afik, di Rekob. Così la gente di Aser abitò in mezzo ai cananei della regione, perché non li cacciò dalla loro terra. Neanche Neftali cacciò gli abitanti di Bet Semes, né quelli di Bet Anat, e così abitò in mezzo ai cananei della regione, per quanto sia quelli di Bet Semes che quelli di Bet Anat gli pagassero il tributo. In quanto alla gente di Dan, essa fu stretta nella zona montuosa dagli amorrei, che le impedirono di scendere nella pianura. Così gli amorrei riuscirono a tenersi Archeres, Aialon e Saalbim, e solo quando la casa di Giuseppe divenne più potente, essi furono sottoposti a tributo. Il territorio degli amorrei si estendeva dalla salita di Acrabbim, da Sela in là. Un messaggero del Signore salì da Galgala a Bochim e disse: «Io vi ho fatto uscire dall'Egitto e vi ho condotto nella terra che avevo promesso con giuramento ai vostri padri. Avevo detto che non avrei infranto il patto con voi in eterno, purché voi non faceste alcuna alleanza con gli abitanti di questa regione e purché distruggeste i loro altari. Voi invece non avete dato retta alle mie parole. Che è mai quello che avete fatto? Ora io dico: non caccerò più queste genti davanti a voi, ed esse saranno vostre nemiche. I loro dei saranno per voi causa di rovina». Quando il messaggero del Signore ebbe terminato di dire queste parole a tutti gli israeliti, il popolo alzò la sua voce in pianto. Per questo il luogo fu chiamato Bochim. Qui offrirono un sacrificio al Signore. Giosuè congedò il popolo e gli israeliti se ne andarono ognuno alla sua terra per prendere possesso della regione. Il popolo si mantenne fedele al Signore finché fu in vita Giosuè e finché lo furono gli anziani che a lui sopravvissero, i quali avevano veduto tutte le grandi opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì in età di 110 anni e fu sepolto nella parte di territorio che gli era stata assegnata a Timnat Keres, fra i monti di Efraim, a settentrione del monte Gaas. Allo stesso modo, tutta quella generazione si riunì ai suoi padri, e dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva né il Signore né tutte le opere che egli aveva compiuto per Israele. Gli israeliti

il torrente Chison ha calpestato con violenza le loro vite. Martellavano il suolo gli zoccoli dei cavalli, galoppo sfrenato dei loro destrieri. «Maledite Meroz», dice l'angelo del Signore, «maledite, maledite negli abitanti che non sono venuti in aiuto del Signore, in aiuto del Signore in mezzo agli eroi. Benedetta fra le donne Giaele, benedetta fra le donne della tenda, aveva chiesto acqua e gli dette del latte, in una coppa da principi gli offrì il fiore del latte. La sua mano afferrò un piolo e la sua destra un maglio da fabbri. Percosse Sisara, gli sfracellò la testa, gli fracassò e gli traforò le tempie. Fra i piedi di lei si contorse, cadde e giacque. Fra i suoi piedi si contorse e cadde. Dove si contorse, lì cadde massacrato. Alla finestra si affaccia e sospira la madre di Sisara alle imposte. Perché indugia a venire il suo carro? Perché è sì lento il moto dei suoi carri? Le donne sue sagge le rispondono, e anch'essa ripete fra sé le loro parole. Certo hanno trovato bottino e se lo stanno dividendo. Una, due donne per ogni guerriero, preda di vesti variopinte per Sisara, preda per il mio collo. Un ricamo dai vivi colori, due ricami, preda per il mio collo. Così periranno tutti i tuoi nemici, Signore. Quelli che ti amano siano come il sole, a levarsi in tutta la sua forza. E la regione ebbe pace per 40 anni. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li dette per 7 anni nelle mani dei madianiti. La mano dei madianiti fu terribile sopra Israele. Gli israeliti, per timore dei madianiti, andarono ad abitare sui monti, in caverne e in luoghi di difficile accesso. Quando gli israeliti avevano seminato, venivano contro di loro i madianiti, gli amaleciti e altri popoli dell'Oriente, che dopo aver posto le tende nel territorio degli israeliti, devastavano tutte le messi fino al confine di Gaza. Non lasciavano niente di vivo in Israele, né pecore, né buoi, né asini. I nemici venivano col loro bestiame, le loro tende erano numerose come le cavallette e i loro cammelli non avevano numero. Venivano nella regione per devastarla. Così gli israeliti, a causa dei madianiti, caddero in profonda miseria e alzarono il loro grido al Signore. Alzarono il loro grido al Signore a motivo dei madianiti, ed egli inviò loro un profeta che disse: «Così dice il Signore, Dio d'Israele: Io vi feci uscire dall'Egitto, vi liberai dalla vostra schiavitù, vi liberai dalle mani degli egiziani e da quelle di tutti i vostri oppressori che cacciai davanti a voi, finché non vi detti la loro terra. Vi dissi che ero il Signore, Dio vostro, e perciò di non temere gli dèi degli amorrei, nella cui terra voi abitate. Ma voi non avete dato ascolto alla mia voce». Venne il messaggero del Signore e si fermò sotto la quercia che era in Ofra e apparteneva a Joas, della famiglia di Abiezer. Intanto Gedeone, figlio di Joas, stava battendo il grano nel frantoio per sfuggire ai madianiti. Il messaggero del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, prode guerriero». Gli rispose Gedeone: «Oh, Signore, se il Signore è con noi, com'è che ci troviamo fra questi mali? Dove sono tutti quei prodigi del Signore di cui ci parlano i nostri padri quando dicono che egli ci fece uscire dall'Egitto? Ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian». Il Signore allora si rivolse verso di lui con queste parole: «Va, che con la tua forza salverai Israele dalle mani dei Madianiti. Sono io che ti mando. Gli rispose Gedeone: Oh Signore, come farò a liberare Israele? La mia famiglia è la più oscura in Manasse e io ne sono il membro più insignificante. Ma il Signore riprese: Sarò io con te e tu potrai abbattere i Madianiti come se fossero un solo uomo. Gedeone disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu quello che parla con me. Non ti allontanare di qui, ti prego, finché non sarò tornato, che voglio prepararti un dono per offrirtelo. Il messaggero del Signore l'assicurò che sarebbe restato lì finché egli non fosse tornato. Gedeone entrò in casa e preparò carne di capretto e pane azzimo. Posta poi la carne in una cesta e il brodo in un tegame, uscì incontro all'ospite che lo attendeva sotto la quercia e gli offrì il cibo. Il messaggero di Dio allora gli disse di prendere la carne e le focacce, di porle su di una pietra che c'era lì e di versarvi sopra il brodo. Quando Gedeone ebbe fatto tutto, il messaggero del Signore stese la punta del bastone che teneva in mano, toccando la carne e le focacce. Subito un fuoco sprigionatosi dal sasso divorò la carne e le focacce. Poi il messaggero del Signore scomparve dalla vista di Gedeone, il quale, resosi conto che quello era davvero il messaggero del Signore, esclamò: «Ahimè, Signore Dio, ho visto davvero il messaggero del Signore faccia a faccia!» Il Signore gli disse: «La pace sia con te, non temere, che non morrai!» Gedeone edificò in quel posto un altare, al quale pose nome «Il Signore è pace». Esso si trova ancor oggi in Ofra di Abiezer. Accadde che quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Prendi quel toro che ha tuo padre e un secondo di 7 anni. Poi abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre e spezza il palo sacro che gli sta accanto. Costruirai poi un altare al Signore Dio tuo sulla cima di questo poggio, una pietra sull'altra. Prenderai il secondo toro e lo offrirai in olocausto sul legno del palo sacro che avrai fatto a pezzi». Gedeone, presi con sé 10 dei suoi servi, fece come gli aveva detto il Signore, e poiché temeva quelli della casa di suo padre e gli abitanti del villaggio, invece di agire di giorno, agì di notte. Il mattino seguente, quando gli abitanti del villaggio si svegliarono, videro che l'altare di Baal era stato frantumato, il palo sacro che gli sorgeva accanto era stato fatto a pezzi e il secondo vitello era stato sacrificato sul nuovo altare. Poiché la gente voleva trovare chi era stato a compiere una cosa simile, fece un'attenta ricerca e scoprì che era stato Gedeone, figlio di Joas. Allora gli abitanti del villaggio chiesero a Joas che consegnasse loro suo figlio per ucciderlo, perché aveva distrutto l'altare di Baal e aveva spezzato il palo sacro che gli era drizzato accanto. Ma Joas rispose così alla folla che gli si accalcava d'intorno: «Volete per caso essere voi a difendere Baal? Voi a portare aiuto a lui? Chiunque cercherà di difenderlo morrà prima di domani mattina. Se è davvero un dio, penserà lui a vendicarsi perché è stato abbattuto il suo altare». Quel giorno Gedeone ricevette l'appellativo di Jerubbaal, perché si diceva: «Si vendichi di lui Baal che ha distrutto il suo altare». Tutti i Madianiti, gli Amaleciti e i popoli dell'Oriente si radunarono e, passato il Giordano, posero il campo nella valle di Israel. Allora lo spirito del Signore investì Gedeone. Questi suonò il corno e la gente di Abiezer si riunì intorno a lui, pronta alla lotta. Egli mandò messaggeri per tutto il territorio di Manasse, e così anche gli uomini di Manasse si riunirono agli ordini di Gedeone. Poi mandò messaggeri in Aser, in Zabulon e in Neftali, e anche gli uomini di queste tribù si mossero per congiungersi agli altri. Gedeone si rivolse a Dio: «Se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco che io stendo un vello nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele». E così fu. Quando il mattino dopo Gedeone si alzò, andò a strizzare il vello. Ne venne fuori tanta rugiada da farne piena una coppa. Ma Gedeone si rivolse ancora a Dio: «Non divampi la tua ira contro di me, se voglio dirti ancora una cosa. Voglio ripetere ancora una volta la prova del vello. Questa volta resti asciutto solo il vello e tutto il terreno all'intorno si copra di rugiada». La notte seguente Dio fece così e solo il vello restò asciutto, mentre tutto il suolo intorno era coperto di rugiada. Jerub Baal, cioè Gedeone, si mosse di buon mattino con tutti i suoi uomini e andarono a porre il campo alla fonte di Carod. L'accampamento dei Madianiti era posto a nord di quello ebraico, nella pianura ai piedi della collina di More. Allora il Signore disse a Gedeone: «Gli uomini che hai con te sono troppi, perché io possa mettere i Madianiti nelle loro mani. Che gli israeliti potrebbero gloriarsi dell'impresa contro di me, pensando di essersi salvati per opera loro. Ora, perciò, devi proclamare al popolo che chiunque abbia paura e tremi ha da ritirarsi e tornarsene via». Gedeone li mise alla prova. Se ne ritirarono 22.000 e ne restarono 10.000. Ma il Signore disse a Gedeone: «Sono ancora troppi. Falli scendere dove c'è l'acqua, che là te li metterò alla prova. Quelli che ti dirò di portare con te verranno con te, e quelli che ti dirò di non portare con te non verranno». Gedeone ordinò ai suoi uomini di scendere all'acqua, e il Signore gli disse: «Tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come fanno i cani, mettili da parte. Tutti quelli, invece, che per bere si piegheranno sui loro ginocchi, lasciali andare». Quelli che lambirono l'acqua con la lingua furono 300, che tutti gli altri, per bere, si erano piegati sulle ginocchia e avevano portato l'acqua alla bocca con le mani. Disse allora il Signore a Gedeone: «Con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua con la lingua, io vi salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri se ne tornino ciascuno al suo paese». Presero con sé le provviste necessarie al gruppo e i corni. Gedeone poi rimandò tutti gli altri uomini d'Israele, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé solo i 300. Il campo dei Madianiti si trovava nella valle sottostante. Quella notte il Signore si rivolse a Gedeone: «Su, scendi all'accampamento nemico, perché lo darò in tuo potere. E se hai paura ad andare da solo nell'accampamento nemico, porta con te il tuo servo Pura. Lì ascolterai quel che si dice. Allora il tuo braccio si farà più forte per assalire il campo nemico». Gedeone scese col suo servo Pura fino agli avamposti del campo madianita. I madianiti, gli amaleciti e tutti gli orientali coprivano la valle, numerosi come le cavallette. I loro cammelli non avevano numero, erano come la sabbia sul lido del mare. Gedeone penetrò dunque nell'accampamento nemico e udì un uomo che raccontava a un altro un suo sogno. Diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva che una pagnotta di pane d'orzo rotolasse nel campo madianita. Arrivata alla tenda, la colpì e la rovesciò». Gli rispose quell'altro: «Non è altro che la spada dell'israelita Gedeone, figlio di Joas. Dio darà in suo potere i madianiti e tutto l'accampamento». All'udire il racconto di questo sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostrò. Poi, tornato all'accampamento d'Israele, ordinò ai suoi di muoversi, assicurandoli che il Signore avrebbe dato in loro potere l'accampamento madianita. Gedeone, dopo aver diviso i suoi 300 uomini in 3 gruppi, consegnò ad ognuno di loro un corno e un vaso di coccio vuoto con dentro una torcia. Dette loro queste istruzioni: «Voi dovete guardarmi e fare quello che farò io. Ecco, quando io sarò arrivato al limite dell'accampamento nemico, voi dovrete fare quello che farò io. Quando io, seguito da tutti coloro che sono nel mio gruppo, suonerò il corno, anche voi suonerete i corni tutti intorno all'accampamento, gridando per il Signore e per Gedeone». Gedeone e i suoi 100 uomini, giunti a ridosso dell'accampamento nemico, all'inizio del secondo turno di guardia, subito dopo il cambio delle sentinelle, dettero fiato ai corni e spezzarono i vasi che avevano con sé. Allora tutti e 3 i gruppi suonarono i corni e spezzarono i vasi. Tenevano nella sinistra le torce e nella destra i corni in cui soffiavano. Intanto gridavano: «Spada per il Signore e per Gedeone». Per quanto gli israeliti restassero fermi, ciascuno al suo posto intorno all'accampamento madianita, in questo era tutto un correre, un vociare, un fuggire. Quando i 300 suonarono i corni, il Signore fece rivolgere in tutto il campo nemico le spade degli uni contro gli altri. Fuggirono tutti fino a Bet-Sitta, in direzione di Zerera, fino alle sponde di Abel-Mecola, di fronte a Tabbat. Allora si riunirono gli uomini di Neftali, di Aser e di tutto Manasse, e si dettero all'inseguimento dei madianiti. Gedeone mandò messaggeri per tutta la montagna di Efraim per invitare gli efraimiti a scendere contro i madianiti, occupando fino a Betbara e al Giordano tutti i luoghi in cui avrebbero potuto rifornirsi di acqua e i guadi del Giordano. Radunatisi tutti gli uomini di Efraim, andarono ad occupare tutte le fonti fino a Betbara e i guadi del Giordano. Furono catturati 2 capi madianiti, Oreb e Zeeb, e furono uccisi: Oreb al masso di Oreb e Zeeb al frantoio di Zeeb. Gli efraimiti continuarono poi l'inseguimento dei madianiti e mandarono a Gedeone, che si trovava al di là del Giordano, le teste di Oreb e di Zeeb. Gli efraimiti dissero a Gedeone: «Perché con noi ti sei comportato in questo modo? Sei andato a combattere contro i madianiti senza chiamarci». Essi erano molto irritati contro di lui. Ma Gedeone rispose loro: «Che cosa ho compiuto che possa essere paragonato con la vostra impresa? Conta di più la racimolatura di Efraim che non la vendemmia di Abiezer, che è nelle vostre mani che Dio ha consegnato i capi madianiti Oreb e Zeeb. Io non ho fatto nulla che possa essere paragonato con la vostra impresa». A queste parole di Gedeone, l'animosità degli efraimiti si calmò. Gedeone raggiunse il Giordano e lo attraversò con i suoi 300 uomini. Erano stanchi per l'inseguimento. Egli si rivolse agli abitanti di Succot: «Date, vi prego, dei pani agli uomini che mi seguono. sono stanchi e io devo inseguire i re madianiti Zebach e Zalmun. Ma i capi di Succot gli risposero: forse che Zebach e Zalmun sono già nelle tue mani, perché noi diamo da mangiare al tuo esercito. Gedeone rispose: vuol dire che quando il Signore avrà dato in mia mano Zebach e Zalmun, io dilanierò i vostri corpi coi pruni della steppa e con gli scardiglioni. Di là Gedeone salì a Penuel, e anche agli abitanti di Penuel rivolse la stessa richiesta, ma essi gli risposero allo stesso modo in cui gli avevano risposto quelli di Succot. Anche agli abitanti di Penuel Gedeone rispose: quando tornerò sano e salvo, distruggerò questa rocca. Zebach e Zalmun si trovavano a Karkor insieme alle loro truppe. Erano circa 15.000 uomini, tutto quel che restava del grande esercito degli orientali, che i guerrieri caduti erano 120.000. Gedeone, salito per la via di coloro che abitano sotto la tenda, a oriente di Nobak e di Jogbea, assalì di sorpresa i nemici. I re madianiti Zebach e Zalmun fuggirono, ma Gedeone, inseguitili, li catturò entrambi, mettendo in fuga il loro esercito. Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla guerra per la salita di Cheres. Catturato un giovane di Succot, lo sottopose a un interrogatorio e quello gli scrisse i nomi dei capi e degli anziani di Succot, 77 uomini. Gedeone si presentò quindi agli abitanti di Succot con queste parole: ecco Zebach e Zalmun, per i quali mi avete deriso quando mi avete domandato se erano già nelle mie mani per dover dare da mangiare ai miei uomini stanchi. Fatti arrestare gli anziani della città e procuratisi pruni della steppa e scardiglioni, dilaniò con questi i corpi degli uomini di Succot. Poi distrusse la rocca di Penuel e uccise gli uomini della città. Poi Gedeone domandò a Zebach e a Zalmun: come erano gli uomini che avete ucciso sul Tabor? Essi risposero: essi ti somigliavano e tutti avevano l'aspetto di figli di re. Gedeone disse: erano miei fratelli, figli di mia madre. Come è vero Dio, se voi li aveste lasciati in vita, io non vi ucciderei. Si rivolse quindi a Jeter, suo primogenito: su, uccidili. Ma il giovanetto non sguainò la spada, perché aveva timore, essendo ancora molto giovane. Dissero allora Zebach e Zalmun: su, colpisci tu, che la forza dell'uomo è pari alla sua età. Allora Gedeone si mosse e uccise Zebach e Zalmun. Poi prese le lunette che ornavano il collo dei loro cammelli. Gli israeliti si rivolsero a Gedeone: sii nostro capo tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai salvato dai madianiti. Gedeone rispose loro: io non sarò vostro capo, né lo sarà mio figlio. È il Signore il vostro capo. Poi Gedeone aggiunse: voglio però una cosa, che ciascuno mi dia un anello tratto dalla parte di bottino che gli spetta. I nemici, infatti, essendo ismaeliti, portavano anelli d'oro. Gli israeliti accettarono di buon grado, disteso un mantello, vi gettarono ciascuno un anello tratto dalla propria parte di preda. Il peso degli anelli d'oro che Gedeone aveva richiesto fu di 1.700 sicli d'oro, senza contare le lunette, le pietre preziose e le vesti di porpora portate dai re madianiti, e senza contare i collari che ornavano i colli dei loro cammelli. Con questo oro Gedeone fece un efod, che pose in Ofra, sua città. Tutto Israele si prostituì in Ofra con quell'efod, che divenne così per Gedeone e per la sua casa motivo di colpa e di rovina. I madianiti furono umiliati di fronte agli israeliti, non alzarono più la testa. Al tempo di Gedeone la regione ebbe pace per 40 anni. Jerub Baal, figlio di Joas, se ne andò ad abitare a casa sua. Ebbe 70 figli usciti dalle sue viscere, perché aveva molte mogli. Inoltre ebbe un figlio anche da una concubina che teneva in Sichem e gli pose nome Abimelech. Gedeone, figlio di Joas, morì in serena vecchiezza e fu sepolto nel sepolcro di suo padre Joas in Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti si prostituirono di nuovo ai Baal e fecero loro dio Baal Berit. Gli israeliti si dimenticarono del loro dio, il Signore, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non serbarono alcuna gratitudine alla casa di Jerub Baal, cioè di Gedeone, che aveva fatto tanto bene ad Israele. Abimelech, figlio di Jerub Baal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e si abboccò con loro e con tutto il clan della famiglia di sua madre. Chiese loro che si rivolgessero ai signori di Sichem, dicendo: «Che cosa è meglio per voi, avere 70 capi, quanti sono i figli di Jerub Baal, oppure avere sopra di voi un solo capo, che, come voi ben sapete, ha nelle vene il vostro stesso sangue?» I fratelli di sua madre parlarono così di Abimelech a tutti i signori di Sichem, e il loro cuore fu per Abimelech, perché pensavano che era della loro stirpe. Gli dettero 70 sicli prelevati dal tempio di Baal Berit, con i quali Abimelech assoldò una masnada di avventurieri che si misero al suo seguito. Egli andò a Ofra, alla casa di suo padre, dove uccise su un masso i suoi 70 fratelli, figli di Gedeone, dei quali scampò solo Jotam, il minore, perché si era nascosto. Radunatisi allora tutti i signori di Sichem e tutta la casa di Millo, proclamarono re Abimelech presso la quercia della stele che è a Sichem. Quando Jotam fu informato della cosa, andò sulle cime del monte Garizim, da dove a gran voce gridò ai signori di Sichem: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e che Dio ascolti voi. Un giorno gli alberi si misero in cammino per andare a eleggere un re che regnasse sopra di loro. Dissero all'ulivo: regna sopra di noi. Rispose loro l'ulivo: dovrò forse rinunciare al mio olio, col quale si rende onore agli uomini e agli dèi, per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi? Allora gli alberi dissero al fico: vieni tu a regnare sopra di noi. Rispose loro il fico: dovrò forse rinunciare alla mia dolcezza, ai miei ottimi frutti, per andarmi ad agitare al di sopra degli altri alberi? Allora gli alberi dissero alla vite: vieni tu a regnare sopra di noi. Rispose loro la vite: dovrò forse rinunciare al mio mosto, che dà gioia agli dèi e agli uomini, per andare ad agitarmi al di sopra degli altri alberi? Allora gli alberi, tutti insieme, dissero al rovo: vieni tu a regnare sopra di noi. Rispose il rovo agli alberi: se avete davvero l'intenzione di eleggere me vostro sovrano, venite a ripararvi alla mia ombra, altrimenti un fuoco uscirà dal rovo e divorerà i cedri del Libano. E ora, nell'eleggere re Abimelech, è chiaro che non avete agito con lealtà e rettitudine, è chiaro che non avete agito bene nei riguardi di Jerub Baal e della sua famiglia, è chiaro che non avete agito nei suoi riguardi come meritavano le sue imprese. che mio padre per voi ha combattuto, ha messo a repentaglio la sua vita, vi ha liberato dalle mani di Madian, e voi oggi avete osato sollevarvi contro la casa di mio padre, uccidendo i suoi figli, erano 70, su di un masso, e poi avete fatto re dei signori di Sichem Abimelech, figlio di una serva di mio padre, per il solo motivo che è della vostra gente. Se dunque oggi avete agito con lealtà e rettitudine nei confronti di Jerubbaal e della sua famiglia, Abimelech sia la vostra gioia e voi la sua. Ma se la cosa stesse diversamente, che un fuoco esca da Abimelech e divori i signori di Sichem e la gente di Millo, e un fuoco esca dai signori di Sichem e dalla gente di Millo, e divori Abimelech. Poi Jotam fuggì e si mise in salvo a Beer, dove si stabilì per paura di suo fratello Abimelech. Abimelech tenne il potere su Israele per 3 anni. Poi il Signore mandò uno spirito malvagio fra Abimelech e i signori di Sichem, i quali si ribellarono contro di lui, facendo ricadere la violenza perpetrata contro i 70 figli di Jerubbaal e il loro sangue su Abimelech, che era loro fratello, e li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che lo avevano incoraggiato ad uccidere i suoi fratelli. Allora i signori di Sichem, in segno di sfida ad Abimelech, tendevano insidie sulla cima dei monti per depredare tutti i viandanti che capitavano nelle loro mani. La cosa fu riferita ad Abimelech. Intanto giungeva a Sichem, insieme ai suoi fratelli, un certo Gaal, figlio di Obed, il quale riuscì a guadagnarsi la fiducia dei signori di Sichem. Un giorno i sichemiti uscirono dalla città per vendemmiare e preparare il mosto. Poi fecero una gran festa nel tempio del loro dio, mangiando e bevendo. In questa occasione maledissero Abimelech. Gaal, figlio di Obed, tenne ai sichemiti questo discorso: chi è Abimelech e chi sono i sichemiti perché gli dobbiamo stare sottomessi? Egli è figlio di Jerubbaal e Zebul governa la città per lui. E pensare che in passato furono loro sottomessi alla gente di Camor, il capostipite dei sichemiti. Perché dunque restargli sottomessi? Ma se questo popolo si porrà ai miei ordini, io caccerò Abimelech, gli dirò: è grande il tuo esercito, esci a battaglia. Quando Zebul, il governatore della città, seppe del discorso di Gaal, figlio di Obed, si sdegnò e mandò messi ad Abimelech, ad Aruma, con questo messaggio: Gaal, figlio di Obed, e i suoi fratelli sono arrivati a Sichem e sono di fatto padroni della città per staccarla da te. Muoviti di notte, tu e la gente che hai con te, e va a metterti all'agguato fuori della città. Domattina, quando si leverà il sole, muoviti presto e attacca la città all'improvviso. Allora costui ti uscirà incontro con i suoi uomini, e tu farai di lui secondo quello che ti riuscirà. Abimelech si mosse di notte con tutta la gente che aveva, e divisi i suoi uomini in 4 gruppi, andò ad appostarsi nelle immediate vicinanze di Sichem. Gaal, figlio di Obed, uscì dalla città e schierò i suoi uomini davanti alla porta. Allora Abimelech e i suoi uomini uscirono fuori dal luogo dove erano appostati. Quando Gaal li scorse, disse a Zebul: «Vedo gente che scende dall'alto dei colli». Ma Zebul gli rispose: «È l'ombra dei colli che scambi per uomini». Gaal insisteva: «Vedo uomini che calano dall'ombelico della terra, e un'altra colonna arriva dalla strada della quercia degli indovini». «Dove è mai andato a finire?» esclamò allora Zebul. «Quello che andavi dicendo, chi è Abimelech che gli si debba servire?» È questa la gente che disprezzavi. Avanti dunque. Combatti contro di essa. Gaal, alla testa dei signori di Sichem, dette battaglia ad Abimelech, ma fu messo in fuga. Molti caddero morti prima di raggiungere la porta della città. Poi Abimelech tornò ad Aruma, mentre Zebul inseguiva Gaal e i suoi fratelli per impedir loro di restare a Sichem. Nonostante ciò, il giorno dopo i sichemiti uscirono di nuovo dalla città e la decisione fu riferita ad Abimelech. Egli prese i suoi uomini e, divisili in tre gruppi, andò ad appostarsi fuori della città, e così, quando vide i sichemiti che uscivano dalla città, li assalì e li travolse. Allora Abimelech, col suo gruppo, si precipitò avanti e andò a schierarsi davanti alla porta della città, mentre gli altri due gruppi assalivano i sichemiti che si trovavano in aperta campagna e li massacravano. Abimelech continuò l'assalto alla città per tutta la giornata finché non riuscì ad espugnarla. Ne uccise gli abitanti e la distrusse, spargendovi sopra il sale. Quando i signori della rocca di Sichem si resero conto delle intenzioni di Abimelech, si rifugiarono nella cripta del tempio di El-Berit. Abimelech, appena seppe che i signori della rocca di Sichem si erano raccolti tutti insieme, salì sul monte Salmon insieme agli uomini che aveva con sé. Qui, impugnata la scure, Abimelech tagliò il ramo di un albero e, caricatoselo sulle spalle, ordinò ai suoi uomini di fare rapidamente quanto avevano visto fare a lui. Allora anche tutti i suoi uomini tagliarono ciascuno un ramo. Poi, seguendo Abimelech, andarono a deporre i rami sopra la cripta e la incendiarono, lasciandovi bruciare tutti quelli che vi erano dentro. Tutti gli abitanti della rocca morirono in numero di circa 1000, fra uomini e donne. Poi Abimelech andò ad assediare Tebes e la espugnò. V'era in mezzo alla città una rocca possente, dove si erano rifugiati tutti, uomini e donne, con i signori della città. Barricatisi dentro, erano saliti sugli spalti. Abimelech, appena giunto ai piedi della rocca, ne cominciò l'assalto, riuscendo a spingersi fino alla porta che voleva incendiare. Ma una donna gli gettò sulla testa una macina da mulino, fracassandogli il cranio. Subito Abimelech, chiamato il suo scudiero, gli ordinò di sguainare la spada e di finirlo, perché non si dicesse che era morto per mano di una donna. Morì trafitto dallo scudiero. Quando gli uomini di Israele videro che Abimelech era morto, se ne tornarono ciascuno al suo paese. Dio fece così ricadere su Abimelech il male che aveva commesso contro suo padre quando uccise i suoi 70 fratelli, e ugualmente fece ricadere sui sichemiti tutto il male da loro compiuto. Era caduta sopra di loro la maledizione di Jotam, figlio di Jerub-Baal. Dopo Abimelech sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, della tribù di Issacar. Egli abitava a Samir, sulla montagna di Efraim. Egli giudicò Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui sorse il galaadita Jair, il quale giudicò Israele per 22 anni. Aveva 30 figli, che cavalcavano su 30 asini e governavano altrettante città nella regione del Galaad, dette i villaggi di Jair, nome che conservano ancora. Quando Jair morì, fu sepolto a Camon. Gli israeliti ripresero a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, prestando culto ai Baal, alle Astarti, agli dei di Aram, agli dei di Sidone, agli dei di Moab, agli dei degli Ammoniti e agli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo adoravano più. Esplose allora contro Israele l'ira del Signore, il quale consegnò gli israeliti nelle mani dei filistei e degli ammoniti. Quell'anno filistei e ammoniti iniziarono una spietata oppressione degli israeliti che durò 18 anni. Ne furono colpiti tutti gli israeliti che abitavano al di là del Giordano, nella regione amorrita del Galaad. Gli ammoniti passarono poi il Giordano per portar guerra anche alle tribù di Giuda, di Beniamino e di Efraim, cosicché l'oppressione di Israele era grande. Allora gli israeliti gridarono al Signore: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio per prestare il nostro culto ai Baal». Ma Dio rispose così agli israeliti: «Quando gli egiziani, gli amorrei, gli ammoniti, i filistei, i sidonii, gli amaleciti, i cananei vi opprimevano e voi alzavate il vostro grido a me, io vi ho salvato dalle loro mani. Ma nonostante questo, voi mi avete abbandonato per servire altri dei. Per questo non voglio più salvarvi. Andatevene piuttosto a implorare l'aiuto degli dei che vi siete scelti. Penseranno loro a salvarvi nel tempo della vostra oppressione». Ripresero gli israeliti: «Abbiamo peccato. Fa tu di noi tutto quello che vuoi, ma oggi liberaci, ti imploriamo». Gli israeliti allora eliminarono di mezzo a loro gli dei stranieri e tornarono ad adorare il Signore, il cui animo non poté più resistere alle sofferenze di Israele. Radunatisi, gli ammoniti avevano posto il campo nel Galaad. Anche gli israeliti si radunarono per andare ad accamparsi in Mizpa. Intanto il popolo e i capi galaaditi cercavano chi sarebbe stato l'uomo che avrebbe intrapreso la guerra contro gli ammoniti. Sarebbe stato lui il capo di tutti i galaaditi. Il galaadita Jefte era un valoroso guerriero. Era figlio di una prostituta e di Galaad. Ora Galaad aveva altri figli nati dalla moglie legittima, e quando questi divennero adulti cacciarono Jefte perché non volevano che avesse parte nell'eredità del loro padre, essendo figlio di un'altra madre. Per paura dei suoi fratelli Jefte fuggì e si stabilì nella terra di Tob. Intorno a lui si raccolsero avventurieri con i quali compiva scorrerie. Qualche tempo dopo gli ammoniti mossero guerra a Israele. Quando gli ammoniti assalirono Israele, gli anziani del Galaad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob e gli dissero: «Vieni a metterti alla nostra testa per combattere contro gli ammoniti». Ma Jefte rispose agli anziani del Galaad: «Siete voi che, odiandomi, mi cacciaste dalla casa di mio padre. Per quale motivo, ora che siete in difficoltà, siete venuti da me?» «È proprio per farti questa proposta», ripresero gli anziani del Galaad, «che ora siamo tornati da te. Se vieni con noi a combattere contro gli ammoniti, ti faremo nostro capo, capo di tutti i galaaditi». Disse Jefte agli anziani del Galaad: «Se voi volete che io torni per condurre la guerra contro gli ammoniti, e se il Signore mi concederà la vittoria, io sarò vostro capo». Gli anziani del Galaad confermarono a Jefte: «Il Signore è testimone fra te e noi che faremo come hai detto». Allora Jefte andò con gli anziani del Galaad e il popolo lo proclamò suo capo e suo comandante. Jefte poi ripeté ancora in Mizpa tutti i patti davanti al Signore. Jefte mandò subito ambasciatori al re ammonita a dirgli: «Che c'è tra te e me per cui tu mi abbia mosso guerra e tu sia venuto a invadere la mia terra?» Il re di Ammon rispose agli ambasciatori di Jefte che il motivo di guerra era rappresentato dal fatto che Israele, al tempo in cui risaliva dall'Egitto, si era impossessato della sua terra

Sansone tornò a far visita a sua moglie, portandole in dono un capretto. Avrebbe voluto entrare in camera di sua moglie, ma il padre di lei non lo fece passare, dandogli queste spiegazioni. Credevo proprio che tu odiassi fortemente mia figlia, per questo l'ho data in sposa al tuo paraninfo. Ma la sorella minore è ancora più bella, prendi questa al posto dell'altra. Ma Sansone rispose loro: questa volta sono innocente del male che farò ai Filistei. Così detto, Sansone se ne andò, catturò 300 volpi e si procurò delle torce. Poi unì gli animali a due, legandoli per la coda, e inserì una torcia nel punto in cui le code erano legate. Dato fuoco alle torce, spinse avanti le bestie contro i covoni di grano che i Filistei avevano già innalzato, e andò bruciato tutto, dal grano affastellato a quello già ammonticchiato nei covoni, dalle vigne agli uliveti. I Filistei ricercarono l'autore di quello scempio e seppero che era stato Sansone, il genero del Timnita, e che aveva fatto ciò perché il Timnita aveva preso la moglie di Sansone e l'aveva data in sposa al suo paraninfo. Allora i Filistei andarono a bruciare la donna e suo padre. Disse loro Sansone: avete fatto ciò? Non avrò pace finché non mi sarò vendicato di voi. E li percosse l'uno sull'altro facendo una grande strage. Poi scese ad abitare in una caverna della rupe di Etam. Allora i Filistei si mossero e vennero a porre il campo nel territorio di Giuda, spargendosi a predare nella zona di Lechi. Gli uomini di Giuda chiesero ai Filistei per quale motivo avessero loro mosso guerra, ed essi risposero: siamo venuti per catturare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi. Allora 3.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe di Etam e dissero a Sansone: non lo sapevi che i Filistei sono nostri padroni? Perché ci hai messo in questi guai? Sansone si giustificò con loro: ho fatto a loro quello che hanno fatto a me. Gli uomini di Giuda ripresero: siamo venuti per legarti e consegnarti nelle mani dei Filistei. Sansone disse: giuratemi che non mi ucciderete voi. Essi lo rassicurarono: no, noi ci limiteremo a legarti e a consegnarti nelle loro mani, ma non ti uccideremo. Così, legatolo con due corde nuove, lo trassero fuori della caverna. Quando Sansone arrivò a Lechi, i Filistei gli si fecero incontro urlando, pieni di esultanza. Allora lo spirito del Signore discese sopra di lui. Le corde che legavano le sue braccia divennero come stoppini bruciacchiati e i legami si sfilacciarono cadendo dalle sue mani. Vide accanto a sé una mascella d'asino ancora fresca, la prese e impugnatala colpì con essa 1.000 uomini. Sansone disse: con la mascella d'un asino io li ho ben maciullati, con la mascella d'un asino ho colpito 1.000 uomini. Detto questo, gettò via la mascella e il luogo dove essa cadde fu chiamato Ramat Lechi. Poiché a Sansone era venuta una gran sete, invocò il Signore con queste parole: per mezzo del tuo servo tu hai concesso questa grande vittoria e dovrebbe ora morire di sete e cadere in mano degli incirconcisi. Allora Dio fece un foro nell'avvallamento che si trova in Lechi, dal quale sgorgò l'acqua. Sansone bevve, si sentì riavere e si rianimò. Perciò quella fonte fu chiamata En Coré e mantiene ancor oggi questo nome in Lechi. Sansone fu giudice in Israele per 20 anni al tempo dei Filistei. Una volta Sansone andò a Gaza. Qui, vista una prostituta, andò da lei. Quando gli abitanti di Gaza seppero che era arrivato Sansone, per tutta la notte furono in gran movimento, perché volevano tendergli un'insidia alle porte della città. Poi, però, per tutta la notte non agirono, pur restando in attesa, perché pensavano: «Dovremo attendere fino all'alba, ma l'uccideremo». Sansone, invece, se ne restò a letto fino a mezzanotte. A mezzanotte si alzò, dette di piglio ai battenti della porta della città e li svelse insieme ai due stipiti e al chiavistello. Caricatiseli poi sulle spalle, andò a portarli sulla cima del monte che sorge davanti a Ebron. In seguito, Sansone si innamorò di un'altra donna che abitava nella valle di Sorek e si chiamava Dalila. Allora i principi dei Filistei andarono dalla donna e le dissero: «Seducilo per sapere quale sia il segreto della sua grande forza e con quali mezzi potremo aver ragione di lui per legarlo e ridurlo all'impotenza. Noi ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento». Allora Dalila disse a Sansone: «Ti prego, svelami quale sia il segreto della tua grande forza e con quali mezzi potresti essere legato e ridotto all'impotenza». Le rispose Sansone: «Se fossi legato con 7 corde di nervo fresche, non ancora essiccate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Subito i principi filistei inviarono a Dalila 7 corde di nervo fresche, non ancora essiccate, ed essa con quelle legò Sansone. Nella stanza intanto c'era, pronta ai suoi cenni, gente all'agguato. Poi essa gli gridò: «I Filistei ti assalgono, Sansone!» Ma egli distrusse i legami, come si volatizza un filo di stoppa che senta il fuoco. E così il segreto della sua forza non fu svelato. Disse Dalila a Sansone: «Ecco, ti sei preso gioco di me raccontandomi bugie. Ora dimmi con che cosa potresti essere legato». Egli le rispose: «Se davvero fossi legato con funi nuove, mai adoperate, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Subito Dalila prese delle funi nuove, lo legò e poi gli gridò: «I Filistei ti assalgono, Sansone!» Intanto nella stanza c'era gente all'agguato. Ma egli distrusse le funi che legavano le sue braccia come se fossero filo. Dalila disse a Sansone: «Ancora una volta ti sei preso gioco di me raccontandomi bugie. Dimmi con che cosa potresti essere legato». Egli le rispose: «Se tu intrecciassi le 7 trecce della mia testa con l'ordito e le fissassi con il battente, perderei la mia forza e sarei come un uomo qualsiasi». Fattolo addormentare, essa intrecciò le 7 trecce della sua testa con l'ordito e le fissò con il battente. Poi gli gridò: «I Filistei ti assalgono, Sansone!» Ma egli, svegliatosi dal sonno, strappò via battente, traliccio e ordito. Dalila allora si rivolse a Sansone con queste parole: «Come puoi dire che mi ami se il tuo cuore è lontano da me? Questa è la terza volta che ti sei preso gioco di me col non volermi dire in che cosa consista la tua grande forza». Essa lo soffocava con le sue parole e lo tediava tutti i giorni, finché Sansone fu tanto angustiato da non poterne più. Allora le aprì tutto il suo animo dicendole: «Il rasoio non si è mai posato sulla mia testa, perché io sono Nazireo di Dio fin da quando ero nel seno di mia madre. Se venissi rasato, la mia forza se ne andrebbe, mi indebolirei e diverrei come tutti gli altri uomini». Dalila comprese che Sansone le aveva parlato sinceramente e mandò a chiamare i principi dei Filistei, invitandoli questa volta a venire essi stessi, perché Sansone le aveva aperto tutto il suo cuore. I principi dei Filistei la raggiunsero recando il denaro. Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia, poi chiamò un uomo a tagliargli le 7 trecce. Così egli cominciò ad indebolirsi e la forza se ne andò da lui. Allora Dalila gridò: «I Filistei ti assalgono, Sansone!» Egli si svegliò dal sonno, pensando che anche quella volta, come le altre, si sarebbe liberato scuotendosi con forza. Ma non sapeva che il Signore si era allontanato da lui. I Filistei, presolo e accecatolo, lo condussero a Gaza, dove lo tenevano legato con due catene di bronzo e gli facevano girare la macina nella prigione. Intanto i capelli di Sansone avevano ricominciato a crescere come prima di essere rasi. Un giorno i principi dei Filistei si riunirono per compiere un grande sacrificio in onore del loro dio Dagon e per far festa. Dicevano: «Il nostro dio ha dato nelle nostre mani Sansone, il nostro nemico». Quando il popolo vide la statua del dio, proruppe in un grido di giubilo in onore del suo dio, esclamando: «Il nostro dio ci ha dato in mano Sansone, il nostro nemico, colui che devastava la nostra terra, colui che uccideva tanti dei nostri». In preda all'allegria il popolo gridava: «Fate venire Sansone, che ci faccia divertire!» Allora Sansone, fatto uscire dalla prigione, dovette fare il buffone davanti alla gente. Poi fu messo fra le colonne. Sansone allora chiese al ragazzo che gli faceva da guida di lasciargli toccare le colonne che reggevano l'edificio per potercisi appoggiare. L'edificio era pieno di uomini e di donne, c'erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo vi erano circa 3.000 uomini e donne che osservavano i giochi di Sansone. Egli invocò il Signore con queste parole: «Signore Dio, ricordati di me, ti supplico, e rendimi ancora una volta la mia forza, o Dio, perché io possa vendicarmi dei Filistei per i miei due occhi d'una vendetta sola». Sansone sentite col tatto le due colonne centrali che sostenevano l'edificio e afferratele l'una col braccio destro e l'altra col braccio sinistro, esclamò: «Ch'io muoia insieme ai Filistei!» Poi spinse violentemente, facendo crollare l'edificio sui principi e su tutto il popolo che v'era radunato. E furono più quelli che Sansone uccise morendo che quelli che aveva ucciso durante la vita. I suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre vennero a prendere il suo corpo per seppellirlo fra Zorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoach, suo padre. Sansone fu giudice in Israele per 20 anni. C'era un uomo della montagna di Efraim che si chiamava Mica. Un giorno disse a sua madre: «I 1.100 sicli d'argento che ti sono stati presi e riguardo ai quali hai pronunciato la maledizione che ho udito con le mie orecchie, li ho con me, che sono stato io a prenderli. Ed ora te li restituisco». Esclamò allora sua madre: «Che mio figlio sia benedetto dal Signore!» Costui restituì i 1.100 sicli d'argento a sua madre, la quale disse: «Voglio consacrare di mia mano questa somma di danaro al Signore per mio figlio, per farne una statua di metallo». Dopo che Mica ebbe restituito a sua madre il danaro, questa ne prese 200 sicli e li consegnò al fonditore, il quale ne fece una statua che poi rimase nella casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe un santuario, si fece un efod e i terafim, e dette l'investitura sacerdotale a uno dei suoi figli, che gli faceva da sacerdote. Ciò fu possibile perché in quel tempo non c'era re in Israele e ognuno poteva fare quello che gli piaceva.

Così restarono, e tutti e due mangiarono e bevettero insieme. Poi il padre della giovane disse al levita: «Fammi il favore di pernottare qui ancora, e si rallegri il tuo cuore». L'uomo si preparava già a partire, ma il suocero insistette tanto che egli passò lì ancora una notte. Il quinto giorno il levita si alzò presto per partire, ma il padre della giovane insisté ancora: «Rifocillati, ti prego». E i due si trattennero fino al pomeriggio e mangiarono insieme. Poi l'uomo si preparava già per partire con la concubina e con il servo, ma il suocero, il padre della giovane, insistette: «Vedi che il giorno si avvicina già alla sera. Restate anche questa notte, vi prego. Non vedi che il giorno va già declinando? Resta qui anche questa notte e si rallegri il tuo cuore. Partirete domattina presto. Allora tornerai alla tua tenda». Ma l'uomo non volle trascorrere lì un'altra notte, e così, messosi in viaggio, giunse in vista di Jebus, cioè di Gerusalemme. Viaggiava con una coppia di asini sellati, e lo accompagnavano la concubina e il garzone. Quando essi furono vicini a Jebus, il giorno volgeva già alla fine. Il servo propose al padrone: «Su via, fermiamoci a passare la notte nella città di Jebus, che è qui vicina». Ma il padrone gli rispose: «Non voglio che ci fermiamo in una città di stranieri che non appartengono al popolo di Israele. Continueremo il nostro viaggio fino a Gabaa». Disse poi al garzone: «Su, andremo a pernottare in una di queste due località, o a Gabaa o a Rama». Essi ripresero il loro cammino, e il tramonto li colse mentre erano vicini a Gabaa di Beniamino. Lasciata la strada del loro viaggio, entrarono in Gabaa per passarvi la notte. Il levita, giunto sulla piazza della città, si sedette, ma non c'era nessuno che volesse ospitare i tre viaggiatori per quella notte. Quando ecco sopraggiunse un vecchio che tornava a sera dal suo lavoro nei campi. Era un uomo della montagna di Efraim, che si trovava in Gabaa come straniero, essendo gli abitanti del posto beniaminiti. Alzando gli occhi, il vecchio notò quel viaggiatore che stava nella piazza della città e gli domandò dove andasse e di dove venisse. Gli rispose il levita: «Siamo in viaggio da Betlemme di Giuda verso l'estremo nord della montagna di Efraim. Io sono di là. Sono stato a Betlemme di Giuda e ora sto tornando a casa. Non c'è nessuno che mi ospiti in casa sua, per quanto abbiamo paglia e fieno per i nostri asini e io abbia pane e vino per me, per la tua serva e per il garzone dei tuoi servi. Non ci manca nulla». Gli disse allora il vecchio: «Sii il benvenuto, penserò io a tutto quello di cui hai bisogno. Non devi passare la notte in piazza». Fattolo entrare in casa, governò gli asini, poi tutti si lavarono i piedi, mangiarono e bevettero. Stavano rimettendosi dalla fatica del viaggio, quando alcuni uomini della città, gente di Belial, circondarono la casa e bussarono alla porta. Si rivolsero al vecchio padrone di casa dicendo: «Consegnaci l'uomo che è venuto in casa tua, che vogliamo abusarne». Il padrone di casa venne fuori e disse a quella gente: «No, fratelli, non commettete il male, che quest'uomo è ospite mio, non commettete una simile nefandezza. Piuttosto c'è qui mia figlia, che è ancora vergine, e la concubina di quest'uomo ve le consegnerò. Usatene e fatene quel che vi pare, ma su quest'uomo non commettete una nefandezza simile». Ma quelli non vollero dargli retta. Allora il levita, presa la sua concubina, la spinse fuori e l'abbandonò nelle loro mani. Quelli ne usarono e la violentarono per tutta la notte, fino al mattino, quando, sul far dell'aurora, la lasciarono andare. La donna arrivò a casa al mattino